Noi sono, oserei dire, anni che sottolineiamo l'esigenza di una proroga rispetto a questa scadenza e quantomeno l'esigenza di una informazione capillare alle famiglie e ai cittadini, cioè a tutti gli utenti del mercato appunto di famiglia e del domestico. Purtroppo invece dobbiamo registrare appunto la ormai certa definizione della fine del mercato di maggior tutela, che sono le tariffe amministrate dall'autorità, che di fatto avrà decorrenza dal 10 gennaio del 2024, quindi da quella data l'autorità, l'ARERA, non farà più nessuna, diciamo, determinazione delle tariffe appunto del mercato di maggior tutela. Questo vale sia per l'energia elettrica che per il gas. E per noi questa decisione non è molto, diciamo, coerente, soprattutto con la situazione delle famiglie stesse dal punto di vista economico e appunto con un dato di informazione e di un mercato libero che è molto aggressivo e che in questi anni ha portato anche molte storture proprio e anche a costi maggiori proprio per le famiglie stesse. Infatti una domanda volevo fargliela su questo, perché spesso il libero mercato viene presentato come anche più economico, che permette di risparmiare, ma non è sempre così? No, non è sempre così, perché appunto c'è un problema di fondo che è l'informazione. Quindi per consapevolmente poter aprire un'utenza nel mercato libero bisogna avere una serie di informazioni e bisogna appunto andare alla ricerca vera e propria del gestore che ci offre il prezzo migliore per le nostre caratteristiche, quindi per quanto gas oppure energia elettrica consumiamo e che uso e come la utilizziamo. Bisogna che noi abbiamo una serie di dati e che confrontiamo e valutiamo le moltissime offerte che ci sono appunto sul mercato. Pensate solo che in questo settore ci sono oltre 600 gestori a livello nazionale, quindi lei capisce che c'è una giungla praticamente di dati, informazioni e anche a volte, diciamo, segnalazioni un po' capziose da parte dei gestori che purtroppo fuorviano appunto poi le scelte dei cittadini. Noi veniamo da un 2022 in cui le bollette sono impazzite, hanno messo in difficoltà molte famiglie, anche in seguito a speculazioni. C'è questo rischio? Allora, il rischio delle speculazioni c'è sempre, in qualsiasi momento, soprattutto nei momenti più critici, quando ci sono dei cambiamenti o appunto magari frangenti come quello che è stato per esempio del conflitto bellico russo-ucraino, piuttosto che altre, diciamo, criticità anche internazionali. La stessa criticità guerra nel Medio Oriente ha portato a un rialzo delle tariffe, assolutamente speculativo, così come quando si arriva in procinto, non so, dell'inverno, le tariffe tendono ad alzarsi, per esempio. Questo purtroppo è sempre così, sono speculazioni difficilissime da individuare, quindi è chiaro che le persone, le famiglie, i cittadini, soprattutto i più diciamo i più deboli, insomma, quando devono approcciarsi a questi meccanismi hanno bisogno appunto di un pacchetto informativo che li faccia appunto andare ad una ricerca più consapevole e mai fermarsi al primo magari gestore per il quale può sembrare che l'offerta che viene proposta sia vantaggiosa, perché sono moltissime le cose da considerare, quindi quanto consumiamo, qual è il costo a kilowattora o a metro cubo che ci viene proposto, se il prezzo è un prezzo per esempio bloccato, per quanto tempo ci viene proposto il blocco, se è un prezzo flat, cioè con un tetto massimo, anche qui valutare bene se si va fuori da quel, diciamo, da quelle caratteristiche, cosa poi succede successivamente. In realtà appunto c'è una piccola platea, quella dei vulnerabili, che continuerà a avere delle tutele, però appunto è molto piccola come platea. Allora, diciamo che la platea è per noi troppo ristretta, parliamo appunto di chi ha fragilità, degli ultra 75 in generale, di chi ha appunto situazioni, chi per esempio percepisce il bonus sia per l'energia che per il gas può, diciamo, rientrare in questo mercato protetto, chi in casa è costretto all'utilizzo di macchinari per la propria salute che comportino l'utilizzo appunto di energia, quindi si tratta sicuramente di una platea ristretta per i quali vanno valutate bene anche qui le compatibilità in sostanza, però sì, noi avevamo chiesto a gran voce che il mercato di maggior tutela rimanesse proprio come punto di riferimento per tutto appunto il mercato dell'energia complessivamente inteso. Purtroppo, ritorniamo da capo, questo non è stato possibile e oggi le tutele sono per noi troppo limitate.